Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Sono passati 2 anni, ma i mercati non hanno ancora dimenticato un'estate particolarmente bollente, quella del 2011, quando lo spread, questo termine del quale nessuno per la verità prima aveva sentito molto parlare, la famigerata differenza di rendimento fra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, toccò livelli mai visti. Giornate pesantissime, mercati sulle montagne russe, in un copione gialletto più volte per la verità dal 2008 in avanti, e molta apprensione fra i risparmiatori, che hanno cercato in ogni modo possibile di proteggere intanto la propria propensione al risparmio, perché in molti per la verità l'hanno dovuta ridurre se non cancellare completamente, e poi conservare il proprio capitale. Lo scenario rimane incerto, il nostro paese rimane ancora in un grande osservato speciale da parte della comunità finanziaria internazionale, ma nel contempo i mercati tutti stanno vivendo un momento molto interessante. Wall Street sui massimi storici, l'Asia in rallentamento, il Giappone molto volatile. Orientarsi non è facile, ma non bisogna abbassare la guardia. Gli esperti ci dicono che per proteggere il risparmio bisogna diversificarlo al meglio possibile, ma come si fa? Cosa fare in questo momento con i propri risparmi? Salva Danaio oggi aiuta, tra virgolette, gli ascoltatori a fare un check-up del proprio portafoglio con 2 consulenti finanziari. Per cui raccontateci un po' qual è l'estate del vostro risparmio, cosa avete intenzione di fare, cosa avete fatto, quali sono le scelte che avete fatto fino a questo momento e come avete affrontato anche così uno scenario che è sicuramente stato inedito da molti punti di vista. 800 24 00 24 è il numero verde che, se volete, vi dà l'opportunità di intervenire in diretta, confrontarvi con noi. 349 238 6666 invece il numero per i vostri messaggi. Se volete, ci potete scrivere a salvadanaio @radio24.it, su Facebook, su Twitter. Buongiorno a Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza finanziaria Lupotto & Partners, ma soprattutto, scherzavo prima di far partire la diretta, il nostro uomo del BTP Italia, perché per tutte le emissioni organizzate appunto su questo prodotto di investimento, su questo titolo appunto dal Tesoro Italiano, ogni volta Gianni Lupotto ci ha aiutato appunto a comprenderne tutte le dinamiche e le caratteristiche. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati. E buongiorno anche a Giuseppe Closa, consulente finanziario, autore di tutta una serie di libri di cui poi vi ricorderò i titoli, ma tra l'altro ho scoperto proprio poco fa, Giuseppe, che esattamente un anno fa era ritornato qua in studio da noi, quindi evidentemente sì, come dire, la sua dimensione proprio quella estiva anche a Salva Danaio. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Ricordo, è autore di Banca Bassotti, manuale di autodifesa del risparmiatore, La vendetta del risparmiatore, e anche Siamo fritti, il teatrino della bassa finanza, tutto quello che non ci dicono e come possiamo difenderci. Detto tutto correttamente? Sì. Perfetto, manca qualcosa? Poi c'è un sito anche. Sì, va bene, lo ricordiamo, quello di Bassa Finanza, giusto? Bassafinanza.com. Ottimo, sì. Allora, quindi oggi vorremmo anche, non dico, come dire, mantenere un tono leggero, perché quando parliamo del risparmio delle famiglie italiane il tono deve essere sicuramente sempre molto sobrio e serio, però insomma non vogliamo neanche deprimere i nostri ascoltatori, che già con lo spread sono assolutamente depressi, perché abbiamo visto che questo concetto, che ritenevamo molto lontano dalla nostra quotidianità, in realtà è molto più vicino di quanto appunto non pensassimo. Prima di tutto questo parleremo dell'estate dei mercati dal punto di vista della gestione del nostro risparmio. Adesso vediamo invece la giornata dei mercati. Come vi dicevo prima, questa è una sicuramente giornata di attesa della riunione odierna iniziata ieri dalla Banca Centrale Americana. Per la verità si riunisce per l'esattezza il Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Federal Reserve. Si decide sui tassi di interesse, che però rimarranno sicuramente fermi negli Stati Uniti, in questo corridoio vicino allo zero praticamente, su cui la Federal Reserve li ha fissati da tempo, ma più che altro oggi ci aspettiamo un'indicazione più precisa sul ritiro di tutte le misure di stimolo monetario che da tempo appunto la Banca Centrale Americana ha adottato. Il mercato vuole essere molto rassicurato da questo punto di vista. Domani invece avremo Mario Draghi, la Banca Centrale Europea, anche in questo caso attesa per la decisione sui tassi, che anche in questo caso sicuramente rimarranno fermi allo 0,50%. Andiamo a vedere nel frattempo la borsa come si comporta. La borsa, che in queste ore, chiaramente in attesa delle banche centrali, si concentra sui risultati delle trimestrali che stanno divulgando appunto le società quotate. Parigi più 0,04%, Francoforte più 0,10%, Londra più 0,54%, Milano meno 0,28% sul FTSE MIB. Milano oggi è trascinata da Telecom Italia, trascinata a ribasso, da Telecom Italia che perde 5 punti, si parla di un possibile aumento di capitale per la società. Il gruppo ha smentito stamattina, ma il mercato a quanto pare non ci crede tanto a questa smentita e il titolo continua a scendere. Popolare dell'Emilia Romagna, meno 1,31, Mediaset oggi frena dopo il forte rialzo degli ultimi giorni, gruppo appeso evidentemente alle decisioni della Cassazione, meno 1,13% per il Biscione, oggi Enel, meno 1, Intesa San Paolo, meno 0,8%. Chi sale invece Fiat Industrial, che ha comunicato i suoi risultati stamattina, l'utile della gestione ordinaria nel secondo trimestre migliore delle attese, più 3%. Per il titolo, bene anche Finmeccanica, più 1,53, Mediolanum continua a correre, più 0,97%, i risultati sono stati comunicati ieri, Saipem più 0,8, Snam, risultati comunicati stamattina, più 0,8%. Euro su dollaro a 1,32,73, lo spread stamattina si è svegliato sui 271 punti base, se non mi ricordo male. Questa è la giornata di oggi, sentiamo un po' invece che aria tira sui mercati, la nostra scheda. Sono passati 2 anni, ma i mercati non hanno ancora dimenticato un'estate particolarmente bollente. Quella del 2011, quando lo spread, la famigerata differenza di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, toccò i massimi storici. L'allora governatore della BCE, Jean-Claude Trichet, inviò il 5 agosto una lettera controfirmata dall'allora governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, dove si imponevano una serie di riforme all'Italia. La debolezza politica e gli attacchi speculativi nei confronti del bel paese portarono alla caduta del governo Berlusconi, sostituito da quello tecnico di Monti. Nello stesso periodo la Banca Centrale Europea fece parecchi acquisti di titoli spagnoli e italiani per calmare i mercati in fibrillazione. Secondo recenti indiscrezioni, a fine 2011 fu perfino scritto un decreto di chiusura dei mercati finanziari perché si temeva di non poter più collocare sul mercato titoli del debito pubblico. Decreto che fortunatamente rimase in cassaforte. Nell'estate 2013 l'Italia si conferma in balia delle incertezze economico-politiche, nonché sorvegliata speciale in un mondo sempre più complicato, per dirla col premier Enrico Letta. In questo scenario così incerto e complicato, dove conviene investire i propri risparmi? Secondo un sondaggio condotto su 41 analisti e money manager, per non rischiare, quest'estate converrebbe costruire un super portafoglio bilanciato basato prevalentemente su titoli di Stato e obbligazioni, e per il restante su azioni delle borse occidentali, Piazza Affari, Wall Street e borse europee. Rispetto al 2011, il rating sul debito italiano è passato da A a BBB. Nel caso in cui il rating fosse tagliato a BB, i fondi pensione e i fondi di investimento inizieranno a vendere i BTP italiani perché troppo rischiosi. Ecco perché le autorità di vigilanza di borsa, assicurazioni e fondi pensione hanno invitato i risparmiatori a non decidere gli investimenti in base ai giudizi delle agenzie di rating, sviluppando invece dei propri criteri di investimento. Alla luce di tutti questi elementi, l'estate può essere l'occasione giusta per fare un check-up e una riflessione sul proprio portafoglio, prima di un autunno 2013 che potrebbe non accontentarsi di far cadere solo le foglie. 800240024 è il numero verde per le vostre domande. Vi dico già che, come ci aspettavamo, le considerazioni più frequenti che arrivano da parte dei nostri ascoltatori è la seguente: insomma, ma di quale risparmio state parlando? Qua non ce la facciamo neanche ad arrivare alla fine del mese e la nostra propensione al risparmio ormai è solo un lontano ricordo. E invece ce ne sono anche altri che ci scrivono chiaramente che hanno un risparmio molto piccolo, per cui devono proteggerlo in ogni modo possibile. Saluto Domenico che ci scrive da Busto Arsizio. La mia domanda è: da che cifra conviene cominciare a pensare ad un investimento? Se ho, poniamo, una cifra molto modesta, 20.000 euro, è meglio lasciarli sul conto corrente lasciando ad altri gli investimenti veri? Ciao e complimenti. Salutiamo Domenico. Gianni Lupotto, addirittura qualcuno che a poco pensa di non aver neanche diritto ad una piccola consulenza, no? C'è addirittura questo pudore da parte di molti ascoltatori, non so se lo riscontrate anche voi nella vostra attività quotidiana. Sì, un pochino, questo è un po' sbagliato, perché non c'è limite inferiore per iniziare a risparmiare. Quindi io consiglio al nostro amico che ha scritto di rivolgersi comunque a qualcuno che lo possa consigliare. Naturalmente il portafoglio, quando è piccolo, va curato con attenzione, evitando eccessivi rischi. Certo, eccessivi rischi. Per esempio, noi consigliamo sempre, lei lo sa perché abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, la diversificazione per poter compensare le perdite magari di un asset con della crescita appunto potenziale di un'altra. 20.000 euro sono molto difficili appunto da diversificare, quindi... però si può fare qualcosa. Chiaramente gli strumenti più indicati quando si tratta di patrimoni limitati sono gli strumenti collettivi, gli ETF, i fondi di investimento. In questo caso possono dare una mano, hanno un costo implicito ma che è compensato dalla diversificazione automatica. Allora guardi, visto che ha introdotto immediatamente il tema del fondo di investimento, poi sentirò anche Giuseppe Closa che cosa ne pensa, Paolo da Livorno lo facciamo sentire immediatamente, il primo ascoltatore di oggi, perché invece sul tema del fondo di investimento ha un'idea completamente diversa. Paolo, buongiorno. Intanto senta un po', sta facendo il check-up del suo portafoglio? Certo, sì, sì. E allora che cosa ci dice? Sta facendo dei piccoli movimenti? Ha fatto delle scelte corrette? Secondo lei negli ultimi mesi le sta revisionando? Cosa sta facendo? Sì, sto revisionando e comunque come consiglio semplice da dare ai risparmiatori. Senta Paolo, intanto glielo do io un consiglio. Può spegnere la radio che ha lì vicino, perché sentiamo un eco che è un po'... Grazie. Io mi sono trovato molto bene a non sottoscrivere più nessun tipo di fondo di investimento, perché alla fine fanno quello che fanno i parco boy, comprano quando hanno i soldi senza guardare il mercato in che punto è, e vendono quando tutti vendono, e quindi le perdite si moltiplicano sempre di più. Quando c'è da guadagnare si guadagna sempre meno, quindi affidarsi o un bravo gestore o da soli. Ci sono talmente tanti strumenti ora in borsa e sui mercati. L'ultima cosa è comprare un fondo di investimento, studiare un po' e poi gestirsi i soldi meglio per conto proprio. Paolo. E poi avviso tutti i surfisti che stasera c'è il grande maestrale. Cosa c'è stasera, Paolo? Allora, in acqua alle 2:30 c'è un bel centrale, si sta alzando ora. Va bene, grazie Paolo. Allora, intanto sentiamo se i nostri consulenti friggono sulla sedia dopo le appunto indicazioni che Paolo ci ha fornito. Lui è rimasto molto scontento dell'esperienza con i fondi di investimento. Credo che forse avrà fatto delle scelte non corrette, avrà puntato su strumenti che non hanno dato delle grandi soddisfazioni, però anche lì Giuseppe Closa, come per tutte le cose, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, anche perché a giudicare dalla raccolta che questi strumenti stanno facendo dall'inizio dell'anno, dopo anni di disinvestimenti feroci da questi strumenti, in realtà pare che la soddisfazione degli italiani sul fondo ci sia, o no? È un'annosa questione. Allora, prima di tutto è evidente che non si può fare tutta l'erba un fascio, e quindi non, certamente uno non può dire che i fondi vanno scansati e cose del genere. È vero che un'alta percentuale, a mio parere, di fondi di investimento probabilmente non hanno ragione di esistere, in quanto o sono troppo cari o sono mal gestiti o semplicemente replicano delle cose, dei tipi di investimenti che non hanno un particolare senso da un punto di vista di commissioni in più da pagare. Detto questo, secondo me il problema principale, tornando un attimo indietro al discorso dei 20.000 euro di cui si diceva, è del fatto che ci sono persone che hanno scritto dicendo ma di quale risparmio stiamo parlando. Secondo me è una dura verità questa, nel senso che è vero che c'è un grande stock di risparmio in Italia, ma è anche vero che è un problema generazionale, dal mio secondo me, cioè nel senso che noi probabilmente stiamo vivendo ancora di tanti bei risparmi dei nostri genitori e dei nostri nonni. Il problema quando si approccia un investimento, sul quale sono d'accordo col collega, nel senso che 20.000 euro si può comunque approcciare un tipo di investimento, io direi che il problema principale sono le aspettative. Mm-hmm. Sono le aspettative del cliente, del risparmiatore, e ed è la consapevolezza di dove siamo. Il problema principale, secondo me, è che io riscontro che manca un po' la consapevolezza di dove siamo. Noi siamo in un mondo molto diverso, siamo in un mondo completamente diverso rispetto a solo qualche anno fa, mm-hmm. dove tutta una serie di paradigmi, di certezze, di assiomi del risparmio gestito o no del sistema finanziario sono completamente rivoltati, completamente ribaltati. Il problema è che vedo che moltissime persone questa consapevolezza non ce l'hanno. Mm-hmm. Il problema è come fare anche a costruirla nella relazione anche tra cliente e consulente, perché chiaramente l'aspettativa di una persona che viene da voi appunto per gestire il proprio risparmio è quella di farlo crescere e basta, c'è poco da dirgli guarda che è cambiato tutto rispetto a 10 anni fa, per cui te ne devi rendere conto, anche noi i miracoli non possiamo farli. Sai, c'è un proverbio americano di Wall Street che dice: per avere successo un servizio di consulenza deve dire al cliente ciò che vuole sentirsi dire. Questo però non corrisponde necessariamente alla realtà, allora bisogna che il consulente capisca se vuole essere pienamente onesto o vuole semplicemente dire al cliente quello che vuole sentirsi dire, perché il cliente vuole sentirsi dire che oggi potrà guadagnare la cedola, il 4%, il 5% senza rischio, eccetera eccetera, come prima. Questo non è possibile assolutamente, cioè non è come prima, bisogna dirglielo. Certo, però conoscendovi so che si possono instaurare delle relazioni anche estremamente franche con la propria clientela, giusto Gianni Lupotto? Sì, assolutamente sì. Vorrei completare la risposta al signor Paolo, magari mi inserisco. È chiaro che se il proprio patrimonio è di grandi dimensioni più opportuno utilizzare la vasta gamma di strumenti che ci sono, magari facendosi aiutare. Quello che volevo dire è che quando il patrimonio è piccolo è molto meglio, rispetto ad investire su un singolo titolo azionario o obbligazionario, acquistare le quote di un ETF, per esempio, perché c'è una diversificazione. Detto questo, sono d'accordo con Giuseppe, c'è da fare un grande lavoro di acquisizione di consapevolezza. Il nostro mestiere è proprio quello di spiegare ai clienti che la cosa migliore non è quella di inseguire i mercati nelle loro inevitabili altalene, ma è quella di pianificare i propri obiettivi con precisione, e in questo modo il consulente è in grado di meglio costruire la giusta asset allocation per ciascun cliente. Ecco, poi mi spiegherete appunto come fate anche nel rapporto con la vostra clientela. Direi di continuare anche a sentire i nostri ascoltatori, perché contrariamente a quanto accade magari in altre circostanze in cui forse magari poniamo in maniera sbagliata l'argomento, può anche essere che capiti questo, stamattina a quanto pare ci stanno chiamando in molti. Non pensavo onestamente che questo potesse essere un tema giusto per il 31 luglio, invece abbiamo azzeccato appunto l'interesse dei nostri amici che ci seguono da casa. Allora sentirei Mirella dalla provincia di Latina, che saluto con affetto perché so che ci chiama molto spesso. Mirella, buongiorno. Buongiorno, volevo fare questa domanda. Io ho investito una buona parte, una consistente parte dei miei risparmi in BTP scadenza 37, attirata sia dalla cedola sia dal basso costo. Mi chiedo se non ho fatto un'assoluta imprudenza, per cui perché si è movimentato molto il suo capitale di recente, Mirella? Prego? Si è movimentato molto il suo capitale? No, poco. Allora, intanto bisognerebbe capire appunto gli obiettivi con cui ha fatto questo investimento. Una persona che fa, Giuseppe Closa, un investimento di lunghissimo periodo come questo, teoricamente dovrebbe non guardarlo più, no? E aspettare che arrivi a scadenza, no? Oppure è un errore questo approccio che sto indicando? Aspettare che arrivi a scadenza con i chiari di luna che abbiamo in genere, specialmente le lunghe durate, starei molto cauto, nel senso che questo è la signora Mirella, che potrebbe essere prototipo di una risparmiatrice prudente, credo, di in teoria credo certo. di capire, in realtà probabilmente sta facendo delle scelte che tanto prudenti non sono dal mio però, punto ecco, di lei vista. Ha detto una cosa fondamentale e significativa: attirata dalla cedola, probabilmente chi fa un investimento di questo tipo è attirato da questo aspetto perché vuole costruirsi magari quella tredicesima che un pensionato ha, ma che magari non è sufficiente a coprire certe spese appunto ricorrenti nella quotidianità, che ne so, la spesa per la manutenzione della casa, piuttosto che non è una buona scusa appunto per scegliere uno strumento di questo tipo. Cosa? Ma se stiamo a guardare semplicemente le cedole, allora possiamo comprare i bond del Ruanda piuttosto che le lire turche, piuttosto che un sacco di altre cose. Il problema non è solo la cedola, e questo è un tipico errore dal mio punto di vista che molti risparmiatori continuano a fare, perché purtroppo, appunto, come dicevo prima, pensano ancora come prima. Il mondo non è più come prima, quando Bottavio, per dire uno dei personaggi di Siamo Fritti o di Bassa Finanza, Bottavio era il classico, diciamo, pensionato la cui massima preoccupazione era di andare ogni 3 mesi, ogni 6 mesi in banca a rinnovare i bot, perché erano una cosa, o i BTP o i CCT o cose del genere, perché era una cosa tranquilla per cui avevamo la cedula e quant'altro. Oggi non è più così, e i titoli di Stato, ai titoli di Stato da quest'anno è stata inserita una clausola di cui ogni tanto si parla, ma non spesso. Sì, noi l'abbiamo fatto, sì, per certo. la verità, anche con Maria Cannata. Sì. Esatto, le clausole che possono non voler dire nulla, possono non essere mai applicate, attualmente non sono evidentemente previste per i titoli di emissione più, diciamo, antica. Ma è un segno questo, non possiamo ragionare. Magari, per essere precisi, spieghiamola: è una clausola, forse anche con Gianni Lupotto in una trasmissione ci è capitato appunto di affrontare questo argomento, secondo la quale praticamente qualora, scenario improbabile speriamo, però insomma sul quale qualche volta negli ultimi anni ci è capitato di ragionare, uno Stato come quello italiano dovesse diventare insolvente nei confronti delle sue obbligazioni, appunto Lupotto, mi aiuti lei appunto a completare il discorso. Diciamo, nel caso in cui lo Stato diventasse insolvente, ci sono già delle regolamentazioni sul tipo di taglio che ci sarebbe. Però su queste clausole io vorrei dire una cosa, perché mi sembrano francamente del tutto ininfluenti, in quanto se avessero una qualche influenza, le emissioni che hanno queste clausole, quelle che non ce l'hanno, dovrebbero quotare in maniera differente. Quindi esploderebbero i rendimenti magari con le emissioni, sarebbero differenti. Quali sono per esempio le scadenze interessate da queste clausole? No, sono tutte le scadenze, sono tutte le nuove emissioni che a mano vengono emesse. Quelle che sono già in circolazione non vengono toccate. Ma ripeto, siccome i rendimenti sono omogenei, delle obbligazioni dei BTP che hanno queste clausole non le hanno, evidentemente il mercato non percepisce questo come un vero problema. Invece volevo dire alla signora Mirella che non è... Lei ha fatto una buona introduzione dicendo: a me interessa, sono attratto da una buona cedola. Forse l'errore è quello di aver puntato troppo su una singola buona parte, ha detto buona parte. Allora, ci sono tante obbligazioni che pagano una buona cedola. Se si diversifica, si ha una maggiore tranquillità che queste cedole vengano pagate omogeneamente e regolarmente. Allora, Closa, guardi, sono le 12:30, devo andare a fare la prima pausa, la faccio completare perché la vedo che frigge sul tema delle clausole appunto e le famose CAC delle quali stiamo parlando. 800 24, richiedo quindi di aspettare un momentino solamente. Continuo intanto a ricordare il numero verde per i nostri ascoltatori: 800 24 00 24. Sono già pronti Enrico da Torino e Mario dalla provincia di Alessandria. Tra poco. Eccoci ritrovati in diretta, una chiacchierata non propriamente estiva, per la verità, non propriamente da sotto l'ombrellone, ma invece chissà che molti di voi non stiano ragionando anche nella quiete di fronte appunto al mare, nella quiete della spiaggia, di come poter gestire bene i vostri risparmi. Sono sudatissimi, lo dice qualche ascoltatore, qualcuno addirittura non riesce più tanto a risparmiare, ma magari ci è riuscito in passato, adesso quello che ha deve conservarlo molto bene, molto attentamente. Allora, cosa si deve fare in questa fase in cui chiaramente i mercati, soprattutto negli ultimi 2 anni, ci hanno abituato a situazioni inedite? Abbiamo cominciato a parlare di spread a tavola, una cosa che sicuramente prima del 2011 chi mai l'aveva fatto appunto. Abbiamo cominciato a notare quello che succede appunto sui mercati finanziari internazionali, abbiamo cominciato ad occuparci un po' più forse del passato, del Giappone, dell'Asia, di Wall Street, e anche i titoli di Stato ci hanno manifestato delle tendenze a cui molti non erano abituati. Anche i titoli di Stato nei loro rendimenti appunto sono finiti sulle montagne russe, e quindi quindi dobbiamo essere molto attenti e molto accorti. Stamattina qualche indicazione ve la stiamo dando con due consulenti finanziari che sono con me, Gianni Lupotto e Giuseppe Closa, e hanno manifestato nell'ultimissima parte appunto dell'inizio di Salvadanaio una visione molto diversa sul tema del titolo di Stato italiano, e friggeva Giuseppe Closa perché lui invece non li suggerisce molto ai suoi clienti. Titoli di Stato, diciamo appunto. Che riprendendo la domanda dell'ascoltatrice Mirella con il BTP 2037, ma tra l'investire tutto in un BTP e magari investire una piccola quota nel proprio portafoglio c'è molta differenza. Lei addirittura è proprio un disfattista, insomma, su questo. No, evidentemente è evidente che c'è una grossa differenza. Qui stiamo parlando di un portafoglio sbilanciato su un BTP di durata molto lunga, quindi se anche non vogliamo parlare di altri tipi di rischi, stiamo parlando di rischi di un rialzo dei tassi che potrebbe assolutamente, prima di tutto è assolutamente possibile che ciò avvenga, visto che sono 30 anni e più che c'è il ben godi delle obbligazioni, perché con i tassi che scendono le obbligazioni salgono e tutti siamo felici e tutti siamo bravi a investire in obbligazioni, dimenticandosi che prima di 30 anni fa c'era il cosiddetto bear market, cioè il mercato ribassista delle obbligazioni, l'orso, che non era particolarmente piacevole per gli obbligazionisti. Detto questo, se si entrasse in uno scenario di rialzo dei tassi, il BTP 2037 potrebbe essere leggerissimamente devastato nelle sue quotazioni. A quel punto poi il giudizio si ferma, perché bisogna vedere qual è l'obiettivo della signora e anche come è gestito il resto del suo portafoglio, però senza spaventarla. Magari appunto, se dovesse aver ascoltato i suoi consigli, come farla uscire anche gradualmente appunto dall'investimento di questo tipo? Ma in questo momento probabilmente sta guadagnando, se ho capito bene. Certo, infatti è attirata dalla buona cedola. Quello che ha detto, attirata dalla buona cedola, sta guadagnando, presumo, perché va tutto bene, perché lo spread sta scendendo, perché i mercati sono disconnessi dalla realtà, per quello che io dico assolutamente, specialmente su Bassa Finanza. Diciamo. Sul suo blog. Lupotto, su questo sicuramente a Closa non si può dar torto. Qualche volta abbiamo avuto l'impressione di mercati totalmente dissociati dalla realtà, perché con una Wall Street che cresce e si porta sui massimi storici, da altre parti appunto del pianeta invece la crisi morde, la Cina rallenta, non c'ha più appunto quei ritmi di crescita a cui ci aveva abituato a due cifre, effettivamente qualche volta abbiamo l'impressione che Giuseppe abbia ragione. Ma su questo sono piuttosto d'accordo. Non dimentichiamo che negli ultimi 12 mesi, quindi un risparmiatore che idealmente avesse ascoltato questa trasmissione 12 mesi fa, avesse investito, negli ultimi 12 mesi gli investitori azionari hanno guadagnato mediamente dal 15 al 20%. Perché c'è tanta liquidità in giro, le banche centrali continuano a stampare moneta. E anche gli investitori in obbligazioni hanno guadagni vicino alle due cifre, chi ha investito in high yield sicuramente superiore al 10%, ma anche chi ha investito nei bistrattati titoli di Stato ha delle plusvalenze. Quindi questa potrebbe essere approfittare del mese di agosto per una ristrutturazione del portafoglio, vedere le posizioni in maggiore guadagno e magari alleggerire un po', in quanto nel mese di agosto i mercati sono di solito abbastanza non danno molte soddisfazioni. Noi non possiamo farlo vedere in radio, ma lei mi ha portato un grafico in cui proprio ci racconta per esempio come si muove il mercato americano mediamente, statisticamente, ad agosto. Poi chiaramente non mediamente c'è certezza. Il mercato americano azionario ad agosto è fermo, poi magari ci sono degli anni che fa più 10 e degli altri meno 10, però come media ponderata degli ultimi 10 anni il movimento è zero. Allora, detto questo, tra l'altro io, guardate quanti ascoltatori ci sono in attesa, vi faccio vedere appunto il mio monitor, vorrei capire che cosa ne pensate del fatto che prima o poi le banche centrali dovranno cominciare a ritirare tutta questa liquidità, continuano a prometterlo, poi il mercato crolla non appena lo dicono i banchieri centrali, mi riferisco in particolar modo a quello americano, e quindi ritirano i remi in barca e dicono appunto, ribadiscono, no, continueremo a dare tutta la liquidità fino a quando è necessario, però prima o poi dovremo tirare i remi in barca. Cosa succederà in quel momento? Ce lo direte tra poco, adesso però sentiamo i nostri ascoltatori. Allora, intanto avete tirato fuori la questione delle clausole di salvaguardia e adesso Valerio ritorna sull'argomento. Valerio da Monza, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, un titolo scadenza maggio 2016 rientra tra quelli a lunga scadenza? Quando ha sottoscritto questo investimento, Valerio? Un'asta recente? Due mesi fa. Credo di sì, Lupotto. Se l'emissione è recente, se è una riapertura di una vecchia emissione, no. Ah, però è... Valerio, in grado di dircelo. Se potete essere più chiari sul cosa significa la clausola di salvaguardia, che implicazioni ha? Cioè, Valerio, teoricamente il Tesoro dice questo titolo qua te lo rimborso alle condizioni che dico io. Sì, se diciamo la maggioranza dei obbligazionisti, dell'assemblea degli obbligazionisti delibera questo. Quindi Per il Tesoro italiano anche vale questo? Certamente, ci deve essere un parere favorevole, però questa cosa è scontata perché la gran parte dei titoli sono in mano a investitori istituzionali. Mm-hmm. Quindi da questo punto di vista però io mi sento nuovamente di tranquillizzare gli ascoltatori, perché non è questo l'elemento dirimente. L'elemento dirimente è se l'Italia è destinata a un rapido default o meno, perché non sarà la discriminante la presenza o meno delle clausole all'interno dell'obbligazione che determinerà una maggiore o minore perdita. Allora, un'altra precisazione da Closa, che si è portato dietro, se non vedo male, da qua da lontano, proprio come il testo del Ministero del Tesoro su questo? Questo è il decreto del Ministero, il decreto 96717 del 7 dicembre 2012, dove si parla di queste clausole. Però ecco, volevo specificare questo. Ora non vorrei che... poi alla fine sembra che facciamo il terrorismo no? sui titoli di Stato. Ma lei un pochino l'ha fatto, quindi adesso però bisogna dirlo, no? Che certo. Ci sono queste clausole, sennò la gente va, dice compra il BTP, una roba tranquilla, e poi non sa che c'è una clausola. È come giustamente, se vogliamo tutte le informazioni sulle clausole, i prospetti informativi, dobbiamo averle anche sui titoli. Quello che vorrei dire è che siccome siamo in un mercato, dal mio punto di vista, totalmente disconnesso dalla realtà, causa iniezioni di liquidità che definirei glucosio, per cui c'è un mercato iperglicemico. Proprio droga, direi, perché siamo diventati tossicodipendenti, appunto. È così, d'altronde, che sia mercato drogato, lo abbiamo detto più volte. Bene, il problema della percezione del rischio da parte del mercato, purtroppo, secondo me, è il mercato non percepisce il rischio. O meglio, quando il mercato percepirà il rischio, per il risparmiatore è troppo tardi. E questo il grosso problema. Perché noi abbiamo... Lì, e per quel lavoro là ci siete voi, però. Sì, esattamente, ed è quello che stiamo cercando di fare, perché il problema, ripeto, è la mancanza di consapevolezza, non certo diffusa e generica, ma comunque abbastanza presente, che io riscontro, nel fatto che il mercato attualmente nasconde dei rischi che non si vedono, i paradigmi del risparmio e dell'investimento sono cambiati, purtroppo le aspettative delle persone sono ancora molto legate al passato. L'obiettivo principale in questo contesto è quello di non perdere, non quello di guadagnare. Certo, conservare, quantomeno proteggersi, non so, dall'inflazione in prospettiva, anche se adesso non abbiamo questo problema, però anche questa prima o poi, se la liquidità viene ritirata, anche questa comincerà a crescere. No, Closa? Si presume. Sì. No, dice che non succederà questo. Mi spiazza sempre. Sentiamo un po' che cosa chiedono ancora gli ascoltatori. Enrico da Torino, buongiorno. Vabbè, dobbiamo chiudere questa parentesi sui BTP, ma la chiudiamo con Enrico, poi andiamo anche agli altri argomenti. Rapidissimo, grazie. Buongiorno Deborah. Sì. Senta, volevo solo chiedere questo. Cioè, se è vero quello che mi hanno detto in banca, che i BTP a lunghissima scadenza, i trentennali, in caso di un'eventuale ristrutturazione del debito sarebbero forse i meno toccati dal pericolo. Allora, Enrico, e poi, Lupotto, se aggiungo ancora questo, se è oculato il mio portafoglio che è investito al 60% in botta 6 mesi e al 40% in BTP a lunghissima scadenza. Comunque, in ogni caso, ecco, tutto concentrato sull'emittente Italia e sul settore obbligazionario governativo. Gianni Lupotto, a prescindere dal fatto che sia l'Italia il paese su cui punta prevalentemente Enrico, che è un'attitudine di quasi tutti gli italiani, perché questo dobbiamo dirlo, appunto, intanto chiariamo il primo aspetto, poi mi dia un giudizio su questo portafoglio così concentrato. Allora, bisogna forse essere un pochino più tranchant. I portafogli concentrati non vanno mai bene, qualunque sia gli strumenti in cui anche la banca, un portafoglio investito tutti in Bund tedeschi non va bene. Certo. Perché non è possibile prevedere cosa succederà in futuro. Quindi è sempre utile diversificare. Detto questo, cosa hanno detto il signor Enrico in banca? Che i BTP trentennali sono meno rischiosi in caso di ristrutturazione. Io penso che abbiano voluto dire questo. Dal momento che i BTP di lunga scadenza a parità di cedola hanno un prezzo più basso, è chiaro che se io compro oggi un BTP del 2037, cedola 4, spendo 90. se compro lo stesso nominale di un BTP cedola 4 che scade l'anno prossimo, spendo 100. Ecco che allora il mio rischio è 90 verso 100. Quindi in questo senso, e solo in questo senso, nel caso di haircut c'è è un rischio leggermente inferiore. Non che vengano classificati come titoli diciamo privilegiati. Ecco, detto questo, appunto il portafoglio chiedeva un giudizio. L'ascoltatore mi pare che l'abbia già data, appunto, la concentrazione non è mai le faccio una qualche esempio finale. Nei portafogli dei nostri clienti, a prescindere, ripeto, da tutte le altre valutazioni, ogni emittente non pesa mai più del 2-3-4%, compresa l'Italia, compreso il BTP. 2-3% addirittura, quindi sì. Estremamente, vede che alla fine siete allineati, Closa, ha sentito? Che le indicazioni appunto di Lupotto, per quanto più rassicurante attenzione. Sul tema del titolo di Stato, però alla fine appunto suggerisce una diversificazione appunto abbastanza ridotta. Allora, no, quello che volevo introdurre prima, Giuseppe Closa, a parte appunto il suo distacco dal titolo di Stato italiano, però siccome anche lei ha dei clienti, visto che fa il consulente finanziario per un grande gruppo italiano, non lo citiamo appunto oggi per correttezza, perché Giuseppe Closa piace più appunto essere riconosciuto per essere appunto l'autore del suo blog, ma anche di questi libri di cui abbiamo parlato questa mattina. Comunque i suoi clienti le chiederanno ugualmente di proteggere e conservare il proprio capitale, quindi lei chiaramente, tenendo in considerazione il fatto che ognuno deve avere un portafoglio cucito addosso alle proprie esigenze, ma appunto cosa suggerisce di fare allora? Ma guardi, allora ipotizzando di dover dare un suggerimento, per esempio, agli ascoltatori che ci hanno chiamato questa mattina, che sono tutti molto prudenti. Beh, insomma, sono tutti molto prudenti. Ripeto, se hanno coloro che hanno la buona parte del loro portafoglio su un BTP 2037, non saprei definire particolarmente. Diciamo che prudente. Ancora passa l'idea che investire nel titolo di Stato voglia dire conservare il proprio risparmio. Questo ha a che fare, questo ha a che fare con la percezione del rischio, appunto, dicevo. Per cui troviamo ancora oggi portafogli che sono pieni di obbligazioni bancarie di ogni genere, specie, possibilmente subordinate, in quanto rendono di più. Oggi, certo. A proposito di percezione, subordinata significa che se la banca non dovesse più essere in grado di rimborsare questa obbligazione, appunto in un'eventuale ristrutturazione, appunto il cliente perde è l'ultimo tutto. Esatto, dei, probabilmente dei possibili può esercizi. Perdere tutto, come è successo recentemente in Olanda, per esempio, la civilissima e solidissima Olanda, con una sua banca, una importante banca, che a un certo punto ha avuto dei piccolissimi, delle piccole voragini miliardarie dovute a speculazioni su derivati e sul mercato immobiliare di altri paesi, e a un certo punto, per reperire i soldi per, diciamo, nazionalizzarla, salvarla, è stato deciso che un certo tipo di obbligazioni di quella, emesse da quella banca e quindi vendute certamente ai risparmiatori, alle azzurrine, che sono poi altri personaggi di bassa finanza, la tipica vecchina con i capelli azzurrini che va in banca per farsi consigliare. Ecco, queste persone hanno sottoscritto obbligazioni di questo tipo senza naturalmente avere la più pallida idea di cosa sia la clausola di subordinazione, certo. Si sono ritrovate con un capitale zero. Quindi, quindi lei che cosa fa? Mi dia qualche indicazione concreta, per cortesia. Allora, prima di tutto, ovviamente il problema dell'indicazione concreta ha a che fare con la personalizzazione. Su questo siamo d'accordo. Detto che appunto gli italiani non sono particolarmente spavaldi, qualche volta hanno fatto degli errori, ma non sono proprio spavaldi con i propri risparmi, lo vogliono proteggere, lo vogliono conservare, lei che cosa suggerisce di fare oggi? Di investire in Giappone? Questo dipende. Allora, voglio citare una frase di un analista, se posso, uno dei pochi analisti che ne ha facoltà. Grazie, molto gentile. Un personaggio abbastanza bravo che dice: ho imparato negli anni che una delle cose da ricordarti è che se non hai idea di cosa succederà nel futuro, è bene che tu non strutturi il portafoglio come se invece tu lo sapessi. Okay? Ecco. Quindi, siccome siamo in un periodo totalmente in una terra di nessuno dal punto di vista degli investimenti, e questa è l'unica certezza che abbiamo. Allora, ad esempio, io ho cercato, per esempio, in bassa finanza non ci sono solo delle informazioni o dei discorsi, delle notizie un po' sui generi o dei commenti molto anche arguti e brillanti, la ringrazio, ma c'è anche una parte che cerca di rispondere alla famigerata domanda: e ora che si fa? Perché a fare le chiacchiere siamo buoni tutti, dopodiché. Quindi, naturalmente, non potendo strutturare, personalizzare, ho creato, diciamo così, dei portafogli con delle idee di investimento a seconda di varie tipologie, per cui ad esempio ho messo dei colori, per cui c'è il portafoglio portafoglio azzurrino, che è un portafoglio, quello della vecchina, è quello della vecchina dei capelli azzurrini, che non può più contare sui bot che rendono il 5%. In quel caso abbiamo un tentativo di diversificazione, e lo ribadisco, diversificazione obbligazionaria, non solo naturalmente in euro, ma anche in altre valute. E poi, perché no, abbiamo ho inserito dei titoli azionari di aziende assolutamente solide, che se anche fallisce mezzo mondo, quelle probabilmente continueranno a esistere, a prosperare, pagano dei dividendi che sono più alti dei BTP, e non vedo perché no. Certo, ma lei però mi deve spiegare perché, se la vecchina che va in banca non capisce la natura dell'obbligazione strutturata e magari subordinata, appunto dovrebbe capire la composizione di un portafoglio come questo che lei ci descrive, che appunto nella sua idea è semplice, ma magari per la vecchina è complicato. No, in realtà è molto più semplice di un'obbligazione strutturata, perché un'obbligazione strutturata è incomprensibile per definizione. Spiegare a una signora che non si possono mettere tutte, a una signora di buon senso, che non si possono mettere tutte le uova nello stesso paniere e che se compri un titolo di un'azienda che produce qualcosa invece di produrre carta e derivati, probabilmente rimarrà anche dopo, e se compri magari un po' di cose vere, ad esempio chissà l'oro, anche se ora non va più di moda. Guardi, fermo lì perché abbiamo Gianni da Varese che ha proprio una curiosità sull'argomento. Gianni, buongiorno, rapidissimo, grazie, affezionatissimo ascoltatore del nostro programma. Buongiorno. Buongiorno signorina, e complimenti per la trasmissione. Grazie Gianni. E per il modo con cui lei conduce Focus Economia. La borsa la fa alle 5:30, non si fa alle 18. Non si possono dire queste cose al mio vice direttore Gianni. Andiamo allora. Ecco, con tutti questi quantitative easing, cioè stampaggio di cartacea in America, in Giappone, in Inghilterra, cioè l'oro a questi prezzi, secondo i suoi interlocutori, è da prendere o no? Grazie mille. Grazie Gianni. Edoardo, ci metto insieme anche un altro paio di domande, così almeno completiamo. Tra l'altro sono 12:52, 58 chiudiamo, dovrò richiamarvi visto che avete avuto così grande successo stamattina. Chi sentiamo? Mario dalla provincia d'Alessandria, perché è un tema molto bello, meriterebbe un'intera puntata. Mario, buongiorno. Mario? Sì. Pronto, buongiorno. Ci dica. Buongiorno, innanzitutto grazie che mi avete richiamato. Grazie. Voglio solo dare un piccolo fatto concreto. Mm-hmm. Da un po' che io non sento più parlare, anche nella vostra trasmissione, dei PAC. Sì, piani di accumulo. Considerazioni implicite nel fondo d'investimento, però bravo ad averlo ricordato, Mario. Anche perché io dico dei fatti. I miei due genitori, due pensionati a 80 anni, 100 euro al mese, 2 anni fa, adesso rendono il 25%. Mio figlio da ottobre, che ha 20 anni, 100 euro al mese, ce l'ho qui davanti a me che sono davanti all'home banking, 10,61. Bene Mario, allora il piano di accumulo, quindi comprare... Anche perché, spiego, in questi caldi aria che girano, perché oggi fa caldo, le borse che salgono e scendono, affidare i soldi a dei professionisti che vendono quando è ora e comprano quando è ora, che noi non possiamo seguire, certo, questi danno rendita. Mario, la ringrazio. Allora, Gianni Lupotto, da che cosa vuole cominciare? Dall'oro? I suoi clienti le chiedono appunto anche di proteggere su questa materia prima attraverso tante modalità, perché c'è l'oro fisico, ci sono anche gli strumenti finanziari, ma in realtà ha visto i prezzi precipitare recentemente, quindi protegge come nella convinzione collettiva? Diciamo, è un bene rifugio e quindi chiaramente non paga cedole, è soggetto a oscillazioni, però adesso ragioniamo sul prezzo attuale. Noi riteniamo che il prezzo dell'oro sia, diciamo, incanalato fra una base e un massimo. La base è quella del costo di estrazione dell'oro stesso, che è attorno, poco sotto i $1,000 all'oncia, quindi è difficile pensare che possa scendere moltissimo, perché al massimo i produttori sospendono la produzione, non producono certo in perdita. E quindi noi lo vediamo come un asset class che ha potenziale apprezzamento, probabilmente non subito. Questo rimbalzo che ha avuto sopra 1.300 potrebbe ritracciare leggermente, però lo vediamo comunque come una classe di investimento interessante come diversificazione. Il piano di accumulo va bene sempre, in tutte le circostanze. noi lo usiamo in maniera diffusa anche su portafogli molto grandi. Quando dobbiamo decidere un incremento di investimento, non lo facciamo mai in una tranche anche sola. Perché il PAC consente quell'azione che in genere non abbiamo mai il coraggio di fare, cioè di comprare sul mercato quando questo scende molto. Appunto, attraverso questo strumento in realtà si acquisiscono quote di fondi di investimento, anche se questo è uno strumento che a molti non piace più, che però appunto, come dire, argina anche molte situazioni negative. Va bene anche come piano di disinvestimento, quando il mercato sale molto e uno non trova mai il coraggio di vendere perché dice potrebbe salire ancora, allora si venda a piccoli pezzetti. Quando ci sarà il crollo si avvantaggia. Giuseppe Closa, almeno sul piano di accumulo abbiamo un'idea condivisa o no? Allora, prima di tutto devo fare i sentiti complimenti al figlio dell'ascoltatore, mi pare di aver capito, che ha 20 anni e fa il piano d'accumulo. Eccolo. Questa è una cosa bellissima, direi importantissima, visto che anche poco alla volta, ma la propensione al risparmio, questa sconosciuta. Esatto, adesso invece, a parte i mercati domestici, quelli vicini a noi, ma per appunto posizionarsi già da loro su quei mercati che hanno delle prospettive inevitabili di crescita, perché a parte la Cina che rallenta, ma nel lunghissimo periodo quel paese è destinato ad esplodere. Allora, il piano d'accumulo è una cosa che certamente ha un senso, non fosse altro per, come dire, per obbligarti a risparmiare, a mettere da parte dei soldi, per obbligarti da un certo punto di vista a investire. Bisogna stare attenti a non considerarlo una panacea per tutti i mali, perché qualcuno che ha investito nell'89 sul Nikkei a 40.000 punti, facendo il piano d'accumulo della serie, non si preoccupi, oggi ancora si lecca, non si preoccupi tanto, mediando i prezzi prima o poi guadagna, è ancora probabilmente sotto. È come per tutti gli investimenti, non è che una volta che l'abbiamo fatto ce ne dobbiamo dimenticare. Appunto, facciamo un piccolo check up di portafoglio, magari anche il 31 luglio, perché non ci fa male, anche se è molto caldo. Allora, un'altra testimonianza di Luigi da Roma, perché credo che anche con questa vi dobbiate confrontare molto spesso, poi andiamo a risposte telegrafiche perché stiamo chiudendo. Luigi, buongiorno, rapido, grazie. Sì, buongiorno, velocissimo. Allora, io da parte mia ritengo che in questo momento investirei, per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, sull'immobiliare, particolarmente in Italia, nelle grandi città, Milano, Roma, Firenze. Se poi le metti in affitto, appunto, facendo un acquisto oculato specifico su case di Luigi prezzo... Purtroppo devo chiudere, abbiamo capito il suo orientamento. Allora, quando un cliente viene da voi e vi dice: sai che c'è, io ho tutti questi investimenti finanziari, chi se ne frega, voglio la casa a lupotto, lei che dice? Io a parte che condivido con Luigi, perché io se potessi comprerei 20 case. Per prima cosa bisogna comprare la prima casa, questo è il miglior investimento, la casa dove abitare. Anche perché adesso con i mutui è tutto, è molto conveniente. Per quanto riguarda investimenti ulteriori, è opinabile, bisogna fare un'analisi caso per caso, certamente, dipende dal patrimonio. Esattamente. Closa, 5 secondi sul mattone. Prima casa assolutamente sì, il resto è troppo complicato, perché l'immobile dipende da dov'è, assolutamente. Allora, ci ritorneremo. Grazie Giuseppe Closa, vi ricordo Bassa Finanza, il suo sito, anche Gianni Lupotto e la sua società di consulenza finanziaria, ha il sito dove potete andare a curiosare sulla loro attività. Grazie per essere stati con noi. Noi ci sentiamo stasera a Focus Economia. Buona giornata a tutti.